Questo appello è stato lanciato in particolare dalla campagna inglese e quella statunitense perché nei primi giorni di giugno ci sarà il G8 negli Stati Uniti e l'anno prossimo invece è previsto quello in Inghilterra. E noi abbiamo aderito come campagna italiana per la cancellazione del debito sulla base anche di un contributo nostro specifico, e cioè vogliamo ricordare ai cittadini italiani che seppure l'Italia è dotata di una legge che disciplina la cancellazione del debito, questa legge appunto impone al governo italiano di applicare la cancellazione, però quello che sta avvenendo nel nostro paese è che se da un lato si sta cancellando il debito, e questa è una cosa che ovviamente non possiamo che vedere in modo positivo, dall'altro si sta anche cancellando tutto quello che è invece tutte quelle che sono le iniziative di sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri, e quindi la cooperazione prima di tutto, la cooperazione allo sviluppo e anche le altre iniziative che dovrebbero consentire all'Italia di rispettare gli impegni assunti nelle sedi internazionali, ad esempio per il rispetto e per la realizzazione degli obiettivi del millennio che sono stati sottoscritti da tutti gli Stati quando appunto insieme in occasione dell'Assemblea del Millennio delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere degli obiettivi che erano fondamentali per poter superare la povertà entro il 2015, insomma con una serie di scadenze molto importanti, tra cui quella appunto della cancellazione del debito.